Oh, io questa dell'esperienza me la segno, nel senso non saprei veramente da dove cominciare. Devo partire. Ma in che senso dell'esperienza? Beh, ah, ecco. Dire, effettivamente questo non è il libro più facile di farlo, questo ti do totalmente atto, però Mille piani è già più facile, nel senso che essendo talmente plurale e inafferrabile un punto d'appiglio c'è, cioè, quindi magari parliamone insieme di come fare, perché non è la domanda da niente. In questo testo io non l'ho sbirciato, cioè quella, però effettivamente mi sembra anche di capire che comunque è un giovanissimo Deleuze, cioè è un Deleuze, per dire, io sto leggendo e rileggendo 40 volte penso quel libro che dicevi tu prima, Nietzsche. Su Nietzsche, e si sente che è un linguaggio giovane, anche se è un testo estremamente complicato, ma si sente che ha una traduzione a proprio virgolette dialettica per poi uscire da quella roba lì. Però l'ultimo Deleuze non usa più quella terminologia e quindi appunto arriva più a quello che magari noi sappiamo, usiamo politicamente, diciamo. Questa cosa mi fa pensare all'intervista con la Parnell, no? Sì, Deleuze, quando Deleuze dice che, a proposito di Chekhov, per esempio, quando parla degli scrittori, che gli scrittori, questo genere di scrittori partono dal percetto e arrivano al concetto, nel senso che questi scrittori, lui fa un esempio degli scrittori malati, che questi scrittori sono malati perché non riescono a sopportare quello che hanno visto, però, cioè, nelle loro opere partono da quello che hanno visto, cioè questo, come dire, l'abisso, e quindi dalla percezione dell'abisso cercano di concettualizzarlo, quindi c'è un primato dell'esperienza sulla conoscenza, cioè del percetto sul concetto. Quindi per questo, secondo me, è una buona direzione di ricerca questa qui, cioè, che condivido, che mi rende più semplice le cose. Che vuol dire non parlare di simbolico, ma praticarlo. Esatto. Ragazzi, sì. Non lo so fare. Cioè, non chiedetemi di fare adesso così, perché non so. No, ma... Devi spogliare, no? Cioè, sì. Devi spogliare la struttura. Leva di sto significato. E nel senso, elaboriamo delle metodologie alternative alla questione della virtualità. Yes. Capitolo 4. Sì. Per fare un po' di travaso. E dentro questa roba qua, la cosa che mi faccio girare un po' la testa ultimamente sulla questione dell'immaginazione, ma tutta la questione della virtualità del simbolico all'interno della struttura viene opposta alla questione dell'immaginario, dell'immaginazione, e rientra un po' dentro una natura, no, un po' epigenetica, come diceva, cioè, secondo me, di cui diceva Bifo, che la virtualità della struttura è qualcosa che in qualche modo tende ad occupare sempre una posizione, giusto? Però la lettura che io nella mia esperienza ho sempre dato di virtualità era molto più vicina all'addoppiamento dell'immaginazione piuttosto che a dispiegarsi di una struttura, ecco, mettiamola così. Quindi, primo, come utilizza la virtualità lui qua, e se questo elemento della virtualità e dell'immaginazione, quindi del possibile, non del possibile posto, ma del possibile, cioè quindi quell'apertura di struttura di cui parlavi rispetto a Rizoma, quindi a una nuova struttura trascendentale, come avviene questo passaggio? Cioè, si può lavorare su questo passaggio? Perché io nella mia esperienza umana, di vita e soprattutto politica, questa questione della virtualità, cioè, mi sono confrontato un sacco di volte. Dopodiché, cioè, fa cazzotti anche un po' con l'immaginazione quando tu non trovi un posto per questo, cioè non trovi il posto dell'espressione di questa virtualità. Sono stato un po' critico, però sono uscito molto dal testo, però cioè, la virtualità è cos'è? Una potenzialità. Bene, la potenzialità si dà sulla possibilità di occupare un posto dentro una struttura, oppure dentro la possibilità di liberare quella parte immaginativa che qua, insomma, ne traccia dei lati negativi quando parla di sdoppiamento. però è anche lo storpiamento del potere, cioè il potere che da uno si fa due, che potrebbe essere ancora ascrivibile a una situazione dialettica, però anche no, assolutamente anche no. Allora, io non sono sicuro di aver capito. Ma non fa niente. Collegamenti, però ti faccio lo schemino al volo che fa Deleuze, virtuale attuale, e trovo il gesto. Cioè, lui fa questo schema qui. Virtuale sopra, attuale sotto. Cioè il virtuale, dov'è Simone? Ecco. È il piano di coesistenza. Cioè sostanzialmente tutta la dimensione simbolica. Che nell'atto di quando la differenza emerge si attualizza. Cioè in sostanza c'è un piano di coesistenza virtuale da cui si differenziano le cose, le singolarità attuali. Per ricondurlo dal terreno dell'esperienza, al terreno dell'esperienza, diciamo che io oggi ho parlato di questo articolo, ma avrei potuto parlare di un sacco di altre robe, avrei potuto non essere qui, avrei potuto chiamarmi Roberto, ma alla fine io sono qui ed ora e ho parlato di questa cosa perché si è virtualizzata, si è attualizzata quella differenza lì. Questa attualizzazione si fa per negativo. Scusa, ma che differenza c'è con l'altra coppia potenza atto? Ostia, con la coppia potenza atto? Ma in Aristotele? Sì, che poi sì. Allora che... No, perché cioè, nella mia testa è la stessa roba, cioè non è spiegato adesso, però evidentemente non è la stessa cosa. Ah beh, ok. Cioè, potenza atto sostanzialmente è che ogni cosa che si sviluppa ha un fine, cioè il suo atto. Cioè la potenza è il processo che porta al compimento dell'atto. E può essere solo e solo quello. Ed è così, sì, assolutamente. E questo rimanda, cioè può essere visto da un'idea strutturale, sa? Bifo diceva l'altra volta l'epigenesi, cioè la struttura, la matrice interna che fa sviluppare quella cosa in quel modo lì. E invece in questo senso ritorniamo all'esperienza. Sono mille perché io poi se ne attualizza uno. Se ne attualizza uno, perché? Sì, però devi fare questa. Cioè quell'elemento che permette ad una differenza di passare dal piano del virtuale all'attuale. Non c'è un elemento, c'è una molteplicità. Circostanze. Sì, c'è di tutto. Allora Nietzsche, su Nietzsche, Nietzsche la filosofia che è stato citato prima, dice a un certo punto è impossibile cogliere il senso di una cosa se non se ne comprende il suo valore, una cosa del genere. Il senso di ogni cosa è inseparabile dal valore, insomma, adesso non mi ricordo. Comunque sia, c'è il discorso dei rapporti di forza. La realtà sono rapporti di forze di singolarità aggregate in serie che fanno accadere, cioè fanno attualizzare le cose che si attualizzano su questa questione della struttura. Interviene precisamente, secondo me, a scindere, cioè a far fare un passo avanti quell'elemento di produttività del desiderio di cui si parlava prima, cioè di produttività della differenza. Cioè lì si ragiona per negativo dentro lo strutturalismo, cioè l'identità definita su, cioè la differenza definita sulla non sull'identità, cioè non sono tutta una serie di cose, non sono Roberto, non sto con in realtà sto qua, quindi si definisce per negativo. Invece, credo, però questo è secondo me una cosa che dovremmo verificare, o quantomeno farci a cercare, o quantomeno sulla quale riflettere, la virtualità e l'attualizzazione dentro una dinamica pienamente dell'esguattariana mette a valore molto quel principio di produttività della differenza. cioè l'attualizzazione non si dà per negativo ma per positivo, di tutte le differenze si è prodotta quella differenza che ne ha prodotte tante altre, cioè comincia una serie, è possibile, cioè, è possibile ragionare su questo? Boh, anche perché poi, oltre a questo che è stato letto sempre, cioè il discorso che facevamo all'inizio con Vico, cioè questa produttività del desiderio, questa attualizzazione di un pezzo di virtualità, è sempre stato letto in termini assolutamente positivi e scatologici dal movimento, comunque da molte letture di Deleuze. In realtà, come ha segnato Foucault, non è solo il desiderio rivoluzionario che è produttivo, ma la produttività sta della differenza, sta pure nell'elemento del capitale, anzi, sta anche molto lì, quindi questo elemento della creazione di serie, di differenziali per positivo, cioè è anche un elemento molto interno al capitale, cioè mi viene in mente, cazzo ne so, il mercato finanziario non è altro che una previsione della possibile attualizzazione di una serie di virtualità, una previsione di quello che succederà a partire dai desideri della Cina o del piccolo paesino dello Utah dell'America che definirà le elezioni americane, cioè quindi c'è una lettura dal punto di vista del capitale e nell'attualizzazione della produttività del desiderio. Su questo secondo me può essere utile vedere intanto come stiamo facendo adesso le differenze tra lo strutturalismo e il post-strutturalismo definito nel pensiero del Guattariano, perché poi ce ne sono altre di possibilità, e poi come lavora quella roba lì dentro, cioè questo dalla mia esperienza è una cosa che può servire. Perché la mia difficoltà per dire con il chiamare con una parola, no? Strutturalismo o mancanza prima, è che io quando leggo appunto da sociologa pentita in grande antagonismo con il modo in cui viene fatta quella materia, ma insomma gli sociologi di strutturalismo notoriamente ci fanno due parole così. Il problema per me di richiamare la struttura, o come io leggo, potenzialmente sbagliando tutto, perché anch'io sto tentando di capire, ma come io leggo questi due autori, quindi Deleuze e Guattari, per esempio, Indice della filosofia, e anche Bifo l'altra sera che ha detto, consideriamo Foucault come l'ultimo degli strutturalisti. Dire che Foucault è l'ultimo degli strutturalisti detto da Bifo, secondo me, significa che la nascita della biopolitica è talmente un sistema sopraffino di produzione della soggettività come soggettività oppressa, perché comunque è un sistema elaboratissimo, quindi detto da Bifo, che secondo me non usa tanto Foucault rispetto ad altri, significa dare un'accezione negativa, cioè significa comprimere la soggettività. Nietzsche la filosofia, per come lo leggo io e per quello appunto la questione della struttura, destrutturano tutto, destrutturano appunto la struttura e destrutturano il soggetto. Pertanto, ecco, sarebbe come dire, parlare in questo senso, parlare di post-strutturalismo parlando della struttura sarebbe come parlare dell'antiedipo parlando di Freud, e per quello intendevo dire che secondo me li facciamo rivoltare sulla tomba a un certo punto. Ma il mio fascino per dire con Nietzsche la filosofia, e ripeto, parlo da non filosofa, per cui poi ne discutiamo e posso dire cazzate, ma che in quel loro gioco di destrutturare tutto a un insieme di forze non c'è neanche più il soggetto. Tanto quando per esempio Sandro Mezzada parla di accumulazione primitiva, è un gioco di forze che si chiede ma perché quelle forze riproducono la stessa cosa dall'accumulazione primitiva oggi come soggetti oppressi? Perché questa è una domanda effettivamente. E in questo gioco tra forze la dialettica subentra nel fatto che la differenza, in primo piano dialettico, è sempre tra schiavo e padrone. La dialettica per loro riporta tutto quanto all'interno di questo gioco interno, diciamo, che poi appunto scardinano. L'ultima cosa che volevo dire è sul trascendente. Io non lo so se lo chiamerei trascendente, perché trascendente capisco dove vai tu. Io l'unica volta che dico trascendente con qualcuno che ne sa più di me, insomma, mi prende in giro, nel senso che per me, nel mio linguaggio, nel senso che se guardiamo le cose come qui adesso, non è che possiamo trascendere tantissimo, però magari dobbiamo capire cos'è in potenza di queste forze. Allora, cerco di rispondere a tutto. Uno non ha usato trascendente, ma trascendentale è molto diverso. Sì, sì. Dopodiché, nel senso, cioè, io lo dico molto onestamente, l'ho proposto da subito, visto che si è trattato di capire le cose e le cose hanno una loro complessità, io dico affrontiamo questa complessità. Affrontare la complessità significa magari fermarsi su dei testi per un incontro o due senza giungere a conclusioni immediate. Allora, cioè, te sei arrivata al discorso sul soggetto, è ovvio, Deleuze, in Deleuze e in Deleuze Guattari e in Guattari c'è un discorso di scomposizione del soggetto, se ne parla qui. Io stavo cercando di analizzare un po' più nello specifico certe cose che a mio avviso sono fondamentali per comprendere poi dove arrivano. Cioè, nel senso, quando leggi Lacan, non devi partire da Freud, secondo me sì, perché se non hai capito niente di Freud, allora non hai capito niente di Lacan. Allora cosa ne capisci dell'antiedipo? Dopodiché c'è da dire, c'è un'intervista famosa in cui si dice l'antiedipo è stato accolto male in ambiente accademico, però ad esempio i movimenti lo usano, prendono un pezzo, eccetera. Ok, cioè possiamo fare di tutto, nel senso. Però se si era parlato di capire, secondo me certi discorsi preliminari vanno affrontati e poi le cose vanno capite nella loro specificità. E le cose sono un po' complesse, nel senso. Io a un certo punto, cioè io sul simbolico ho scritto 3 righe e di certo non mi aspettavo che il tema presentasse tutte queste difficoltà. Pensavo fosse di una comprensione più immediata, invece no. Allora io dico, però ecco, questa è una mia opinione. Se c'è un interesse per capire che cos'è sta cosa del simbolico che poi effettivamente è importante per il resto, allora ci vogliamo spendere del tempo sopra? Uno. Altro discorso, invece sui contenuti Simone e Francesca, allora io all'inizio di questo incontro ho voluto proporre delle note metodologiche per vedere come fare le robe, perché ripeto, si deve discutere insieme. Ho parlato a un certo punto di istituzione di piccoli sottogruppi tematici definiti ad esempio da obiettivi. Se Simone vuole sviluppare quello che ha detto, o se te vuoi sviluppare questa roba, per me è alla grande, cioè fate delle ricerche, mettetevi insieme ad altre persone, non so, cioè parliamone di queste cose e poi produciamo dei risultati. Io adesso, ecco, lo ripeto, qualora non fosse stato inteso, uso un metodo molto semplice, cioè leggo il testo, commento e rispondo agli interventi, eccetera. Dopodiché sto cercando di coinvolgere le altre persone perché, come dicevo all'inizio, mi piacerebbe fosse una cosa più dialogica assembleare e non più conferenza, ecco. Perché Bifo fa la conferenza e lo andiamo a sentire, però chi è che viene a sentire la conferenza mia? Insomma, non mi sembra neanche il caso. Se invece, ma non per svilire me, nel senso, però, cioè, non mi sembra quello il punto. D'altra parte, se vogliamo fare una conferenza del tipo, questo gruppo di ricerca si raccoglie e produce una conferenza di un'ora su sta roba, facciamola. Ecco, cioè, questo è il punto della discussione metodologica. Come le fai le robe? Decidiamolo. Questa è. A me verrebbe sinceramente da chiederti però di dire 2 parole sul trascendentale, perché secondo me è fondamentale come, sì, come argomento. Allora io non so se riesco a beccare la citazione. Qualcuno ce l'ha presente la perché citazione? Perché è anche simbolico. Cioè, eh sì, a un certo punto lui dice, in questo senso lo strutturalismo... non lo metterò mai. Uso, vabbè, come la dice Foucault, a un certo punto le parole e le cose, cioè l'allotropo empirico trascendentale. Cioè l'esistenza umana empirica, peccato che il lacaniano è andato via. L'esistenza umana empirica è questa esistenza vuota, non c'è niente dentro. Se non fosse che è determinata dalla struttura trascendentale. Cioè quel piano simbolico all'interno del quale si determinano i contenuti. Trascendentale in che senso? Nel senso appunto dell'orizzonte. Di condizione di possibilità. Bravissima, perfetto. La condizione di possibilità perché si determini quella roba lì. C'è è un po' diverso. Allora, la struttura trascendentale o piano del virtuale che informando l'esistenza umana empirica attuale possibilità. Però ecco, adesso da qui ecco, all'attuale virtuale. Perciò Foucault, bella lì, perciò Foucault può proporre una nuova ripartizione dell'empirica e del trascendentale a pagina 20, alla fine, dove quest'ultimo si trova a essere definito da un ordine di posti, indipendentemente da coloro che li occupano empiricamente. Allora, trascendentale, dove quest'ultimo? Vabbè, indipendente da coloro che li occupano, cioè non è che sono io in quanto mia identità, ma io sono questa esistenza umana empirica vuota determinata da qualcos'altro. Sì, sì, sì. No, perché però io sono un giudice, cioè, dico delle cose per capire se ho capito. Quelle poche volte che ho sentito parlare di strutturalismo non ho sentito parlare in questi termini. Banalizzo, poi forse con l'esempio del linguaggio funziona meglio, però appunto c'è una struttura, cioè c'è una distribuzione di ruoli, il maschio e la femmina per parlare di genere, o la forza lavoro e il capitale, no? Questi ruoli poi devono essere riempiti da sostanza, no? Sostanza, insomma, quindi appunto io occuperò il ruolo di maschio, un'altra persona occuperà il ruolo persona, poi non so se è termine, penso, di femmina e così via, tipo di capitale, quindi questa è la struttura, se ho capito bene. Domanda. Cioè la struttura è una distribuzione di ruoli, così lui diceva appunto, quella strada si chiama in quel modo, appunto una topologia, cioè e una funzione che è collocata in quel particolare punto all'interno di una struttura, insomma, che può essere intesa anche come una mappa, insomma, una carta, non c'è appunto topologia. Quindi quella roba lì deve essere riempita da quell'asfalto piuttosto che, ma appunto ricopre quella funzione. Anto, ti interrompo. Allora, padre e madre sono prima di tutto luoghi in una struttura. Se noi siamo mortali e mettendoci in fila, arrivando in tal luogo, segnato dalla struttura, seguendo quest'ordine topologico delle vicinanze. Vabbè. Allora, diciamo che la struttura è la rete. Le posizioni, i luoghi della struttura sono gli elementi della struttura. Okay. Questi elementi vuoti sono riempiti da un contenuto che equivale alla posizione, ok? Contenuto uguale posizione, che è determinato soltanto dal fatto che differisce da tutto il resto. All'interno di quale sistema? All'interno del sistema, all'interno della rete. Gli elementi. Sì, no, provo a fare degli esempi perché sennò non riesco davvero a capire. Cioè, penso di aver inteso questa definizione del tale, ma cioè, come dire, una condizione a priori, nel senso che è ovvio che una posizione, no, si definisce per opposizione a tutte le altre, questo mi è chiaro. Però non è sufficiente per capire il funzionamento di una struttura, mi pare. Cioè, una volta che abbiamo detto che ogni posizione all'interno della struttura si definisce per negazione, per differenza rispetto a, poi non so se dire, per differenza di tutte le altre, ok, no, quella strada è quella strada perché non è tutte le altre, va bene. Però non basta dire questo, mi fa per capire, cioè a me non basta per intendere che cosa vogliamo dire quando diciamo. Mi sembra che sia più utile dire che appunto che quella posizione sta lì perché ricopre una funzione all'interno della rete di elementi che compongono complessivamente la struttura, quella posizione lì deve poi essere occupata da appunto un contenuto. Okay. Bene, se questa è la struttura, è così come con il linguaggio, no? Io parlo, però sono anche parlato della lingua, questa è un'altra cosa che quell'unica volta che si parla di struttura lì non mi è. Ho ascoltato, cioè appunto, io parlo questa lingua, ma la parlo perché l'ho già trovata lì, no? Altrimenti non potrei parlare, ecco, senza. Poi questo c'è un altro. Questa è un'altra cosa interessante, vabbè. Non potrei parlare, quindi trovo già quel linguaggio lì, quindi io occupo una posizione all'interno di quel linguaggio e lo parlo perché l'ho già trovato lì. Boh, ecco, non ho capito dove cazzo sta questo simbolico in questo, infatti, in questo discorso. Io credo di aver capito, sì. Perché di fatto il simbolico è ciò che mette in movimento la struttura, perché questo è un po', mi sembra, anche l'importanza di Deleuze, il movimento a cui partecipa, la trasformazione che apporta allo strutturalismo è questo, cioè prima era quello che tu hai detto, e c'era un'idea anche molto, mi viene in mente la teoria dei codici, però voglio dire, cioè, tu hai una, appunto come dicevi tu hai a disposizione, no, una serie di posti che tu convochi o vai ad occupare, e questi posti sono dati, no? Cosa succede? E questa è un'idea che diciamo anima anche il pensiero di De Saussure. Il problema è ora poi qualcuno mi corregga, non sono sicuro su questo, però a un certo punto ok, quindi uno ha degli inventari e selezioni, e poi il problema era come rendere conto delle trasformazioni che si danno all'interno di questo, cioè com'è che allora si spiega il cambiamento, cioè com'è che le strutture variano, com'è che cambiano, com'è che si aprono. Allora c'era un problema appunto di, come dire, sottrarre lo strutturalismo ad una dimensione statica che è legata appunto alla teoria sincronica, quindi all'idea che tu tagli la lingua come fosse un salame e poi hai lì tutti gli spazi di ogni parola, come è il grasso dentro il salame, sì, ho capito, però il problema è che noi, la nostra vita non è un salame, non siamo fermi dentro delle posizioni. Allora il problema era spiegare com'è che avvenissero le trasformazioni all'interno della struttura. Io mi fermo qui, non voglio dire, però il punto della struttura è, tu hai detto, cioè per me la struttura non è funzioni, perché le funzioni sono già date, è quello e quello. La struttura è un altro ordine. La struttura è funzionare. È funzionare, però... cioè è il funzionare, cioè la possibilità stessa di possibilità stessa di pensare la struttura, ecco, è molto più lì, cioè nella tua possibilità di pensare i posti, di vedere il cambiamento, molto più lì. Poi quella di cui parli, che è la struttura dei codici, eccetera, è una struttura, come dire, enunciata, è la struttura detta, ma nel momento stesso in cui tu la dici l'hai bloccata. Se posso, riprendo funzioni, ci sono le funzioni, la struttura è esattamente il motivo per cui quella funzione lì significa quella roba lì, e quella funzione lì significa quell'altra cosa. Perché un padre significa un padre? Perché c'è una struttura, perché c'è un sistema simbolico dietro che assicura la corrispondenza. Perché il semaforo rosso ti fermi? Perché c'è una struttura, cioè un'intersoggettività che tutti noi soggetti appartenenti a questo sistema culturale abbiamo in testa, che fa sì che riconosciamo che rosso uguale ti fermi. E questo è il senso del trascendentale, cioè in questo senso non è reale, non è concettuale, non è immaginaria, ma è simbolica. Però perché ho usato la convenzione, cioè, scusami Tommaso, però c'è qualche cosa che è un po' diverso da quello che è una convenzione. No, è perché la convenzione è un qualcosa di intenzionale, nel senso che, cioè, che prevede un'intenzione di soggetti. In questo caso stiamo. Che sta al di là Sì, e soprattutto è anche quello è enunciato, cioè la convenzione è qualcosa di enunciato, qualcosa che, cioè, che si stabilisce. Ma poi vedi il fatto di delle cose più volontarie. Sì. Però se si toglie questa idea di volontà, a me rimane, cioè, rimanda sempre a questa idea di convenzione, perché non so usare un'altra parola in questo momento, nel senso come se ci fosse una specie di banalizzazione della, cioè di mettere in schemi la realtà, no? E più un po' banalizzarla. Però è convenzione in questo senso, che può essere il linguaggio, qualsiasi cosa, o il semplice. Sì, cioè non te la scusa. No, cioè, io vedo la cosa molto più dinamico, perché qui stiamo parlando di strutture date, no? Per me, cioè, la struttura viene fuori, la struttura di cui stiamo parlando ora, non quella di cui hai parlato tu, però, non è per dire che hai sbagliato, no, per dirti che hai fatto proprio bene, proprio per dire qual è la struttura che intendiamo qui, mi sembra di aver capito, ora poi mi correggerai, però è quella cosa che scopri, la struttura si scopre, non è data, è quella cosa che appunto ti permette di dire che tu non sei quell'altro, ma la struttura sta molto più nel non che nel sei quello lì o quell'altro. Cioè, è molto più nel non, cioè, tu scopri la struttura quando ti definisci su base differenziale, ad esempio. Cioè, tu la vivi, la agisci molto di più. La struttura non è data. Cioè, tu la ricostruisci attraverso la trasformazione, uscendo fuori da te. È come se fosse l'unico modo per capire la realtà, in un certo senso. Cioè, non so se... Sì, è immanente. È assolutamente immanente la struttura. Sì. Si scopre, sì, perché... Vabbè, scusate, io però... No, vabbè, sì, però non voglio tirare, perché poi io voglio mettermelo con te, quindi... Sì, no, io vorrei... Sentiamoci su questo, cioè, perché appunto, visto che... Devo fare anche le capi, però... Scusate, Vorrei capire se le cose che sono state dette finora sono quelle che ho inteso io, e adesso, credo di aver inteso quello che... Io sono... Io farei quello che diceva lui, cioè provo a... Boh, a ripeterlo con altre parole, però anche a fare degli esempi, diciamo, ci riesco. Vabbè, con la teoria di genere forse viene semplice questa cosa, perché cioè la misura in cui appunto si manifesta una differenza, no? All'interno della dicotomia uomo-donna, quella differenza lì subito manifesta appunto, permette di vedere che cos'è la struttura, cioè quella struttura lì è che era. Funzionava su una dicotomia A, B, l'emersione della C ti permette di vedere che la struttura era fatta da A e da B. Sì, allora, secondo me ci si ricollega perfettamente, e visto che sono le 9 meno 5, meno 3, cioè, no, io volevo però arrivare a questo punto, cioè, vabbè, allora, tralasciando tutto lo strutturalismo e le mie filologie, volevo arrivare a un punto di logica del senso che poi secondo me si porta necessariamente a macchina e struttura. E cioè, a un certo punto Guattari, in apertura di macchina e struttura, cita questa roba, dice, Deleuze, logica del senso, dice: possiamo forse determinare certe condizioni minime di una struttura in generale. Questo libro lo scrive, mi pare, 2 o 3 anni dopo questo articolo. E bene o male, qui in forma molto più sintetica, dice le stesse cose che dice qua. 1. Occorrono almeno 2 serie eterogenee, di cui l'una sarà denominata come significante e l'altra come significata. 1 e 2. 2. Ciascuna di queste serie è costituita da termini che esistono soltanto per rapporti che hanno gli uni con gli altri, criterio topologico, determinazione, posizione per determinazione differenziale. A questi rapporti, o piuttosto ai valori di questi rapporti, corrispondono eventi molto particolari, cioè singolarità assegnabili alla struttura. Una struttura comporta in ogni caso 2 distribuzioni di punti singolari corrispondenti a delle serie di base. Vabbè, poi qui arriviamo al 3. Le 2 serie eterogenee le due serie eterogenee, le opposizioni strutturali, convergono verso un elemento paradossale, cioè un qualcosa che non è né dell'una né dell'altra serie, che è come il loro differenziante. Questo elemento non appartiene a nessuna serie, o piuttosto appartiene ad entrambe ad un tempo, e non cessa di circolare attraverso di esse. È sua peculiarità di mancare al suo posto. Allora, questo elemento... Sarebbe il simbolo? No, questa è la casella vuota. Cioè, allora, questa è esattamente... Arrivo alla conclusione. Ho capito un cazzo. Insomma, questo è il punto in cui Deleuze fa la sua forte critica allo strutturalismo e all'immobilità dello strutturalismo. Cioè, c'è un punto paradossale, c'è una parte di non senso, cioè c'è un non senso, non è l'opposto del senso, ma quello che non rientra nel senso, in senso l'assurdo. C'è sempre un assurdo rispetto a un sistema di senso strutturalmente dato. Questo assurdo comporta che il sistema di senso, per comprenderlo, deve riarticolarsi, deve cambiare. È il principio motore delle identità differenziali e relazionali di tutta la, degli elementi strutturali e quindi di tutta la struttura. È un non senso che è sempre al lato del senso. Posso certo. Concludo, questo non senso Guattari lo infila nel reale e dice è la macchina. No, mi viene in mente questa, però anche niente, cioè, dico delle cose per vedere serio, perché sennò non... Mi viene in mente questo testo di Mirno, che sia molto di spirito, vabbè, poi vi però faccia un teatro che forse c'entra un po', utilizza Smith così. Però in qualche modo dice che è un'invenzione anche linguistica, adesso non, se mi ricordo bene, lo fa sull'applicazione la nuova, vabbè insomma. Però secondo lui c'è questo elemento antropologico, che è quindi universale, insomma, però vediamo se riesco ad approssimarmi. Cioè come se ci fosse una materia ancora informe, no? A cui bisogna sempre arrivare, diciamo, no? Però questa materia informe per essere per esprimersi ha sempre bisogno di una struttura in qualche modo. E quindi la domanda è, non so se mi sono spiegato. È esattamente l'elemento trascendentale di cui parlavamo prima. Il trascendentale non è altro che in Kant, la spazio-tempo e causalità, cioè quelle forme della mente che ti permettono di capire. E quella roba lì è la struttura, è quella cosa che permette. Però per Birno era un'altra cosa, cioè. Vabbè, adesso. Non... La messa in forma. Cioè c'era. Sì, non lo so, io volevo provare a fare un po'. Per capire cosa è struttura e cosa non è struttura, magari come cosa intendono con rizoma. I mille piani fanno un esempio forse che è facile da cogliere, che è la differenza tra il gioco degli scacchi e il gioco del Go. Se qualcuno di voi... E il gioco del Go? Del Go, che è un gioco cinese, è una scacchiera un po' diversa. E la struttura è esattamente quello che possiamo immaginare, almeno come l'ho letto io, come l'ho capito io, per una scacchiera, no? Il reale di una scacchiera è un pezzo di legno con delle caselle che hanno colori diversi, i pezzi sono pezzi di legno, però hanno una funzione che è diciamo, dettata dalle regole del gioco. Sono le regole del gioco che fanno, che in qualche modo attualizzano quei pezzi di legno nella loro funzione. Nella scacchiera non c'è la casella vuota, però è forse quello che manca a far scoppiare la struttura del gioco degli scacchi, è quello che è probabilmente il gioco del Go, che io non conosco perfettamente, ma l'ho detto così, riesce a fare, cioè apre la scacchiera un po' oltre le caselle, le regole, diciamo, i confini del gioco. Non so se può essere... Cioè, il reale del gioco degli scacchi è il sono i pezzi, no? I pezzi e la scacchiera, l'immaginario è quello che possiamo immaginare dei pezzi, ma il simbolico è quello che dà coerenza al gioco. E dentro quell'orizzonte simbolico non si esce, altrimenti non stai giocando per scacchi. Quindi è quello che tiene dentro il gioco degli scacchi con quello gioco lì. Esatto. Per uscire dalla scacchiera devi rompere il gioco e passare a un altro universo trascendentale, che è quello appunto del rizoma, e il Go è un gioco che si avvicina, secondo appunto. Che le pedine escono dalla scacchiera. Non escono dalla scacchiera, ma il gioco di combinazione delle pedine del Go, che ripeto non conosco, ho visto giocato diciamo così, ma non ho compreso bene le regole del gioco, hanno una logica più posizionale rispetto a quella degli scacchi, per cui però non ci riesco, però è il Mille Piani cui fa questo esempio proprio della, quindi forse diciamo partendo da che cosa non è struttura si riesce più ad arrivare a una definizione di struttura. Dico una cosa al volo su questo, io non ho mai capito il gioco del Go cos'è, però alla grande e è un punto che a me è toccato, è un esempio sossuriano a un certo punto, adesso dice da qui l'amore degli strutturalisti per i giochi. L'esempio è, se io ho una scacchiera e perdo il cavallo e al posto del cavallo ci metto un bottone e il mio avversario è d'accordo, quel bottone è un cavallo. Che significa questo? Significa che non è il cavallo reale, il pezzetto, che determina il cavallo, ma è il cavallo simbolico, ovvero la funzione. E quella funzione del cavallo che si muove a L è determinata non dal pezzo in sé, ma dal pezzo in relazione a tutta la scacchiera, a tutti gli altri pezzi. E tutta la scacchiera, ovvero il sistema di regole che distribuisce i modi in cui i singoli pezzi o topologie si muovono, è la ragione per cui il punto che tiene insieme tutti gli altri pezzi. Cioè il sistema che collega ogni cosa a una sua funzione all'interno di quel tavolo lì, fondamentalmente. Questa. Quindi la struttura non può essere aperta. La struttura è un sistema chiuso, fatto di elementi che hanno una loro funzione, che si combina con le altre e che circola in se stessa. Infatti dice il vero soggetto è la struttura. E il differenziale e il singolare, i rapporti differenziali e i punti singolari la determina reciproca e la determinazione completa. La determinazione e la determinazione completa. Poi c'è l'esempio, cioè forse capisci meglio perché, di Althusser, quando parla del rapporto di capitale in termini strutturali. Deleuze apporta una variazione a sta roba, cioè è quel paradosso lì. Principio della casella vuota, che poi in realtà se non sbaglio è Benveniste, facciamo un punto, qual è il punto? Che c'è fra le due serie, c'è un dislivello, una serie più ampia rispetto all'altra. Si capisce bene secondo me con un paragone di Lévi-Strauss il mana, cioè l'universo esistente, diciamo, è infinitamente più complesso di quello che noi conosciamo, ok? Cioè quello che esiste è più ampio di quello che noi conosciamo. La serie significante delle cose che danno significato è più ampia della serie dei significati, cioè dei concetti che noi facciamo corrispondere a quelle cose. Perché? Perché ci sono un sacco di cose che non conosciamo. Ok? Tutti questi significanti che non rientrano nei significati sono il non senso, inteso non come ciò che si oppone al senso, ma come ciò che non è ancora senso. Una volta che sarà significato, avrà un senso. Cioè sarebbero. Adesso non ce l'ha. Cioè si potrebbe dire che sono delle categorie a priori poste fuori dal soggetto, fluide, liquide, che si creano nel momento in cui il soggetto è rapporto con la realtà. delle categorie, cioè loro delle, cosa mi spiego, è come se fosse fuori dal soggetto, cioè proprio che la mente, no? Se le categorie prime sono il soggetto, pensate, in un certo senso poste nel rapporto tra il soggetto e la realtà e si creano in divenire in questo rapporto tra il soggetto e la realtà. Sì, solo che il soggetto in questo caso è la struttura. Sì, la struttura, sì, la struttura serve alla categoria. Sì. Fluida. Cioè. Allora, no, quello che sta fuori dalla struttura è la categoria. Il soggetto, cioè il soggetto, quello che tu dici, il soggetto è la struttura. E quello che sta fuori, quel fluido che ancora non è strutturato, è la casella vuota. Però questo parla molto di quella roba là. C'è la casella vuota, è quella virtualità che non è attualizzabile dalla allora, struttura preventivamente come è vigente. Esattamente. Chiudo il discorso dicendo significante più ampio rispetto al significato, cioè l'ipertrofia del significante. Deleuze lo prende e dice: ogni struttura si costituisce su una base paradossale, cioè il sistema chiuso sostanzialmente. Adesso la faccio un po' brutale, è chiuso dai rapporti di forze che si verificano nella contingenza, cioè nella realtà. È infinitamente più complessa rispetto a quello che necessariamente l'uomo ha bisogno. E a un certo punto te blocchi, capito? Cioè, c'è un logica del senso, introduce con il senso si costituisce attraverso vari paradossi. Il primo paradosso del senso è la fuga. Cioè il senso fugge sempre. Lo spiego così. Chi è Elena è l'amica di Paola. Chi è Paola è l'amica di Giovanna. Chi è l'amica di... Chi è quella bionda. Chi è quell'altra con gli occhiali. Chi è quella bassa, eccetera. Allora, per descrivere un qualcosa, cioè un linguaggio oggetto, si usa sempre un altro linguaggio che serve, è stato istituito allo scopo di descrivere la prima roba. Ma se tu vuoi descrivere l'altro linguaggio, sì, devi usare un altro linguaggio ancora. Cioè ogni linguaggio oggetto è descrivibile da un metalinguaggio, e questo all'infinito. I piani sono 1000 e sono infiniti. Ogni linguaggio oggetto è descritto da un metalinguaggio. Questa è la funzione paradossale. C'è una fuga di senso che fugge, va, fino a che blocchi. La contingenza blocca la fuga del senso. In Peirce si chiama l'abito sociale. Cioè Peirce dice, ogni rappresentamen è interpretabile con un altro rappresentamen all'infinito fino a che c'è il blocco sociale, basta. Questa è la sinistra, questa è la destra, alto, basso. Se no, non ci si muove. E quindi sono blocchi operativi. Però io... Francesco. Scusami. No, perché Pifo quando dice dell'abisso, no? Giusto per fare le connessioni tra le due, e anche sempre Nietzsche che ritorna, sempre Foucault che ritorna, la cosa prima del trascendente... E il fatto che stiamo litigando con questa struttura, che secondo me possiamo anche più dimenticarcela, l'abisso secondo me è un punto di partenza interessante, perché quella cosa che dicevi adesso del senso non senso, del senso che fugge sempre, quando loro riprendono Nietzsche su questa cosa qua, il loro punto di partenza è proprio che siamo in un abisso. Che cos'è la filosofia? La filosofia è costruire concetti che sono ponti sull'abisso, e i concetti nascono dall'amicizia. Che Bifo, e sarebbe stata una domanda bella da fargli, ha detto i movimenti non hanno mai pienamente riflettuto su questo. Secondo me è un bel tema, cioè non hanno mai pienamente riflettuto sul significato dell'amicizia, che poi in un certo senso è molto banale come cosa, ma è per dire dove arrivano a piedi. Per dire che io prenderei proprio come punto di partenza questo, poi tutto il senso che si viene a costruire è sempre negoziale, è sempre relazionale, è sempre fugge, appunto, e in questo senso anche la nostra struttura fugge, e la cosa più vicina alla struttura, per tornare a quello che diceva Anto prima, è il linguaggio appunto delle parole. Anche Sassuri io lascerei proprio indietro, ma l'unica cosa che ci consente di trovare un ordine in un grande disordine, che è un ordine molto relativo, un ordine molto parziale, è appunto il linguaggio. Proprio per tentare di mettere le cose in fila con la mia lingua, con il mio modo di intendere le cose, per ritornare al punto di partenza che secondo me appunto rimane l'abisso, che è l'unica cosa, l'unico punto di partenza che è veramente ampio e ci consente di guardare la contingenza del reale, tutta la struttura che poi di fatto te la verifica. Sì, però voglio dire, l'abisso è anche, scusa se batto sulla... Però è indicibile, appunto, cioè il problema è uno deve trovare... trovare le categorie. Cioè, di fatto bisogna trovare degli escamotage linguistici o... ma anche più ampi, perché di fatto ogni dato dell'esperienza è già in un certo senso linguistico. Cioè, allora, però, quindi, cioè, secondo me il punto fondamentale di sta roba è, esatto, l'indifferenziato e la differenziazione. Là il cono rovesciato. La totalità virtuale, cioè il caos, e la differenziazione, cioè l'ordine che attribuisci a quella porzione di caos. Il concetto è esattamente questo, dicono in Che cos'è la filosofia? È composto, adesso non è che mi ricordo, comunque di linee, materie non formate, eccetera. Sostanzialmente tu organizzi, dai un cosmos a una parte di caos. Perché si ricollega a questo punto? Perché il caos viene bloccato, la fuga del senso viene bloccata all'interno di un sistema. E in questo sistema tutto torna, come nella partita a scacchi, tutto torna e tutto ha un ordine, eccetera. Però è il punto che porta alla macchina e all'antiedipo, il non senso, cioè la variazione all'interno di questo sistema, la trasformazione emerge sempre. Ma e quindi questo blocco è un blocco arbitrario, e in quanto arbitrario non è universale o necessario o simbolico ed è per forza così e zitti, come vuole lo strutturalismo ortodosso, forte, trascendentale, ma è contingente. E quindi finisco. Le strutture, se le vuoi modificare, se le vuoi trasformare, le trasformi. E quindi la società, e qui ponte sui movimenti politico, eccetera, la trasformi. Non è necessario che è così. No, si trasforma da solo, perché poi questa è la cosa, è che secondo me... Cioè, si trasforma da solo, cioè il problema è farla trasformare dalla parte allora lì ci si apre perché, tutto un discorso perché, sulla soggettività. Ma perché, cioè, su quello che tu dici... Secondo me le strutture, le strutture enunciate servono più che altro per agganciare, ma questo aggancio non significa no, dico a te, cioè non significa ma volevo che lei, perché non significa che si blocca, cioè c'è un blocco del senso, più che altro lo si fa girare su se stesso. Cioè, non è che allora, quando tu enunci una struttura, allora il senso viene bloccato, no? Cioè, il senso continua ad essere in movimento, il problema è... Come più l'ho detto, quando la vallina si... Esatto, cioè il problema è farlo girare più o meno in una dimensione che è da te controllata, dove riesci a vedere, a seguire passo passo questa differenziazione che continua facendo delle sintesi inevitabilmente e così via, ma facendole con coscienza. Questo vuol dire, non so, poi... Sì. Una cosa che mi viene in mente, soprattutto da quello che diceva prima Anto, sempre ricollegando alla prima messa in crisi, cioè in discussione della lettura univoca, è che se, credo, immagino, non c'ero ma... Se negli anni 60-70 poteva esserci un'identificazione tra la struttura e il modello di funzionamento della vita, e quindi la casella vuota lì dentro non era solo il potere che si riarticolava, ma la possibilità di mettere in discussione quel potere. Adesso non mi sembra molto statica la strutturazione del potere, quanto più il contrario, che abbia assunto assolutamente cioè, è pieno di caselle vuote, oggi non sappiamo tutto cazzo mettere queste caselle vuote, cioè, tanto è vero che siamo lì a... quindi, cioè, questo dato filologico, secondo me, che abbiamo messo a punto oggi, e che secondo me è un dato reale, cioè il fatto che il percorso di Deleuze e Guattari si installa dentro a una tradizione strutturalista e la rompe in qualche modo, la critica e la rompe. Sì, sì. Però questa roba qua, secondo me, è anche, fa anche il paio con una particolare lettura politica che c'è stata. Cioè, non è un caso questo. Però, che cazzo, cioè, che ci dice oggi adesso quella, cioè, quel grado di lettura politica? Secondo me il fatto della struttura possiamo accantonare non tanto perché non è un dato interessante per capire delle Guattari, assolutamente è un dato fondamentale per capire da dove cazzo esce fuori il rizoma, ma adesso per capire, cioè, come usare il rizoma, secondo me è, cioè, dobbiamo capire come funzionano adesso le strutture mutatis mutandis. No, parlavi della mobilità della struttura. Sì, sì, sì, sì, cioè, sì. È assolutamente una mobilità che adesso è arrivata al massimo. Cioè, prima, parlando di realtà di quella struttura. Sì, sì. Io terrei bene a mente la differenza fra visibile e invisibile, fra detto e ciò che non è dicibile. Perché tutto ciò che. E questo è il punto, cioè. Comunque tu l'hai già strutturato anche ora, cioè il tuo discorso è un discorso strutturato. E io penso che poi queste strutture del potere. Una gabbia tu non si esce. Come... non si esce da questa gabbia. Le strutture del potere di cui tu parli sono giustamente interessanti perché sono un effetto ottico, cioè ti danno l'impressione della trasformazione e del cambiamento, ma in realtà sono strutture di aggancio molto ben precise. Okay. Quindi, cioè, il. Cioè, per me, poi io è anche un, appunto, se entriamo nella questione politica, cioè, è un problema di fare nostro, è un problema di far circolare questa grande trasformazione dentro i nostri recinti. Non è quello di dimostrare che c'è il cambiamento, quello c'è già. È più che altro di destituire i sistemi autoreferenziali, di costruire una nostra autoreferenzialità, diciamo, più sostenibile. No, più che autoreferenzialità, secondo me, cioè, la posta un po' è quello di cominciare a ragionare, il che è impossibile, nel senso, fughe e blocchi. Bisogna, secondo me, capire che questi blocchi non sono universali, non sono necessari, non sono simbolici, ma sono esito di rapporti di forze reali che si verificano nel mondo. E le strutture di potere ci sono, le strutture simboliche esistono. Il lacaniano Recalcati ogni volta che scrive un articolo su Repubblica dice la contemporaneità fa schifo perché mancano i padri, perché ancora la ragionano così. Sta roba c'è, però abbiamo capito, e l'antiedipo, ma prima ancora Macchina e Struttura, ci ha dato un contributo teorico fondamentale, almeno a me, abbiamo capito che queste cose non sono necessarie ma sono arbitrarie, sono rapporti di forze. È il potere che determina quelle robe lì che devono andare in quella direzione. Però lui, cioè, se ho capito bene, diceva un'altra cosa ancora, cioè, se ho capito, poi faccio anche questa loro introduzione. Ah, sì, sì. No, cioè, lui dice che la struttura già di per sé riesce a mutare e evolversi, quindi per mutamenti qualcosa è già previsto dalla struttura stessa, e quindi perché è autoreferenziale, no? E quindi è un mutamento che la struttura riesce a contenere. Quindi lui dice: qual è la soluzione, qual è la possibile linea di fuga da questa macchina, da questa gabbia da cui non si esce? È creare appunto una macchina autoreferenziale essa stessa, appunto, quindi più sostenibile, quindi un'altra struttura. Sì, io penso. Beh, ora, sì, no, se allora, però non so, per esempio. Allora, io magari a sto punto uscirei, toglierei il termine struttura, metterei magari il termine istituzioni. Ok, va bene. Sì. Su sto livello qui. Però no, però quella lettura autoreferenziale della struttura non lo so, se pensa all'operaismo per esempio, insomma, perché per come hanno inteso anche no, il concetto di forza lavoro certo che è anche dentro al piano del capitale, no? Dire poi il piano, forse un'altra parola per dire, cioè Tanzieri diceva piano. Quindi distribuzioni di ruoli, no? Appunto, la donna, la famiglia, il lavoro riproduttivo, l'operaio, il maschio, il bianco, così. E però, no, però poi quella forza lavoro lì che sta dentro la struttura ed è funzionale al funzionamento, no? Ricopre un ruolo dentro la struttura, poi è anche lavoro vivo, cioè anche capacità di rottura. Infatti, se leggiamo le lotte operaie, come leggiamo non io, insomma, sono state lette per esempio dall'operaismo, questo è un elemento interessante, no? Le lotte operaie non è che contestavano semplicemente un aumento salariale, quello sì sarebbe stato possibile essere contenuto dentro la struttura, no, rifiutavano la posizione di operaio, cioè il rifiuto del lavoro, cioè quindi è un rifiuto radicale, no? Rifiutavano appunto l'attribuzione di un ruolo preciso all'interno di quella struttura lì. Questo che poi ha permesso la rottura della struttura così fondamentalista. Non so se questo, cioè, se direi questa roba guarda. Qui torna con le cose che ci dice. Vivo parlava di rottualizzazione. Direi. Però quando direi dicevo sì. Più sostenibile cioè, questo per dire che dentro la struttura cioè non è che tutto chiuso, cioè ci sono degli elementi di eccedenza, poi capire che cos'è questa eccedenza, forse questa, cos'è questa casella vuota, questo forse è la domanda a cui io adesso non riesco a dare una risposta, insomma, se no utilizzando delle categorie ma c'era, esatto, forse c'è questa è la domanda. Noi siamo un po' antropocentrici in generale, ragioniamo in modo molto antropocentrico e anche il rapporto alle dinamiche sociali, eccetera. Però cioè, la struttura di cui stiamo parlando è molto più ampia, cioè ne fanno parte gli alberi, ne fa parte cioè, il cosmo, tutto, le stelle, tutto. Il problema, cioè, quando io dico più sostenibile, è produrre strutture di assoggettamento, io direi così, di recinti, chiamiamoli così, che tengono conto, diciamo, che sono meno miopi, perché questi sistemi qui, anche del potere, quello con la P maiuscola, il potere di, non so io, di Pasolini, sono delle strutture che funzionano molto bene perché hanno poche regole, cioè sono molto piccole come strutture, ma sono sguardi miopi, cioè che non strutturano, cioè che non traducono, diciamo così, efficacemente o con attenzione il più ampio sistema delle interdipendenze che c'è in quello che chiamavamo prima cosmo, insomma, in questa dimensione più ampia. Quindi quando io dico struttura più sostenibile vuol dire che questo divenire, come dire, va assoggettato, va ricondotto all'interno del nostro controllo, che è potere, ma un potere che però tiene conto delle differenze, che tiene conto della differenziazione. Io spero di arrivarci bene a questo punto, quello che Guattari nel suo lessico chiama, l'ha detto Bifo l'altra volta, resingolarizzazione, ricostituzione di fuochi di soggettività, adesso non mi ricordo come la formula, rifocalizzazione. Comunque il libro è Caosmosi, per chi vuole, è già stato citato, e nello specie è introvabile chiaramente, però lo buttiamo sul blog, nello specifico il primo capitolo e l'ultimo per ben ricordo. Bella. Allora, prima di chiudere vorrei fare una nota metodologica, dato che è successo un po' di casino oggi, stavo pensando che per la prossima volta, allora, uno se interessa il discorso sulla macchina. Sì, mi pare che sia cioè, fondamentale perché secondo me lo è. Come si rompe assolutamente l'elemento, non so se soggettivo, però è l'elemento che siamo arrivati pure noi tutti quanti a voler rompere sta struttura. Oh, quindi la prossima volta. Allora, dai. La prossima volta casella vuota macchina. Due, visto che c'è stato un po' di casino, propongo che mi preparo una roba di una mezz'ora. La dico. E poi si dibatte. Diciamo così. O non so. e poi magari cominciamo a organizzare dei sottogruppi sui vari temi. Ale! Ale!